Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. Quando Delorier si presentò ad Ambrés, questi pensava appunto di ridare impulso alla sua grande iniziativa del carbon fossile. Ma la fusione di tutte le compagnie in una sola era vista male, si parlava di monopolio, come se non fossero indispensabili per imprese del genere dei grossi capitali. Delorier conosceva la questione perfettamente per essersi documentato. Asserì pertanto che la legge del 1810 instaurava a favore del concessionario un diritto inalienabile. D'Ambrés gli consegnò degli appunti per la redazione di una breve monografia. Quanto al modo col quale il suo lavoro sarebbe stato compensato, le promesse furono tanto grandiose quanto poco precise. Delorier tornò da Federico per riferirgli il colloquio. Ai piedi della scala, mentre usciva, aveva anche visto la signora D'Ambrés. «Accidenti, mi congratulo con te!» Poi avevano parlato dell'elezione. Bisognava farsi venire delle idee. Tre giorni dopo, Delorier arrivò con un foglio. Era una lettera confidenziale, destinata ai giornali, nella quale D'Ambrés approvava la candidatura dell'amico. La cosa sorprese Federico. L'approvò, tuttavia. Poi, visto che Delorier doveva incontrarsi con Rock, gli raccontò in che posizione si trovava con Luisa. «Di loro tutto quello che vuoi, che i miei affari sono per aria, che li sistemerò. La ragazza è giovane, può aspettare». Delorier partì e Federico si giudicò un uomo di carattere. Si sentiva placato, d'altronde, profondamente soddisfatto. La sua gioia di possedere una donna ricca non aveva ombre. Il sentimento che provava era in armonia con l'ambiente. In ogni parte della sua vita ormai non c'erano che dolcezze. Fra tutte, la più squisita era forse quella di contemplare la signora D'Ambrés nel suo salotto, in mezzo a tante persone. La loro relazione fu ben presto una cosa accettata, quasi ufficiale. Per tutto l'inverno la signora D'Ambrés si portò dietro Federico in società. Quasi sempre lui arrivava prima e la vedeva fare il suo ingresso, le braccia nude, il ventaglio in mano, le perle nei capelli. Quando si fermava sulla soglia con un leggero movimento d'indecisione e socchiudeva le palpebre per vedere se lui ci fosse già, lo stipite della porta la circondava come una cornice. Se la signora D'Ambrés aveva ceduto, era stato soprattutto per noia. Ma questa ultima prova non doveva fallire. Voleva un grande amore e si mise a colmarlo di adulazioni e di carezze. La fortuna li rendeva arditi. I loro appuntamenti si moltiplicarono. Una volta lei era arrivata addirittura a casa sua di sorpresa con un vestito da gran sera. Quei colpi di testa potevano essere pericolosi. Federico la rimproverò per la sua imprudenza. Fra l'altro era rimasto male. La scollatura metteva troppo in mostra il suo petto magro. Dovette confessare a se stesso allora ciò che aveva cercato di nascondersi, la delusione dei suoi sensi. Non per questo trascurava di fingere grandi ardori, ma per riuscirci era l'immagine di Rosanette o quella di Madame Arnoux che doveva evocare. Questa atrofia sentimentale gli lasciava la testa perfettamente sgombra e la sua ambizione era sempre più rivolta verso un'alta riuscita sociale. Disponendo di una piattaforma simile, il meno che poteva fare era servirsene. D'Ambrés si era ammalato. Federico lo vedeva tutti i giorni, essendo ammesso in qualità di amico intimo al suo capezzale. La destituzione del generale Jean Garnier aveva terribilmente turbato il capitalista. La sera stessa fu colpito da una grande infiammazione al petto, da un'oppressione che non gli permetteva di star coricato. Alcune sanguisughe gli procurarono un sollievo immediato. La tosse secca scomparve, la respirazione si fece più tranquilla. E 8 giorni dopo, mandando giù del brodo caldo, osservava: «Ora va meglio, ma sono stato lì lì per fare il grande viaggio». «Non da solo», esclamò la signora D'Ambrés, alludendo al fatto che non avrebbe potuto sopravvivergli. In luogo di rispondere, il banchiere indugiò sulla moglie e sul suo amante con un sorriso singolare, nel quale si mischiavano rassegnazione, indulgenza, ironia e persino una punta, appena un sottinteso si sarebbe detto, di allegria. Federico voleva partire per Nogent, la signora D'Ambrés si oppose. A seconda del decorso della malattia, i bagagli venivano fatti e disfatti via via. Improvvisamente D'Ambrés ebbe un abbondante sbocco di sangue. I principi della scienza, consultati, non ravvisarono novità di rilievo. Gli si gonfiavano le gambe, lo stato di debolezza aumentava. Già diverse volte aveva manifestato il desiderio di vedere Cecilia, che viveva col marito all'altro capo della Francia. Questa volta ordinò espressamente che fosse fatta venire. La signora D'Ambrés scrisse 3 lettere e gliele fece vedere. Il 12 febbraio alle 5 si manifestò un'emorragia spaventosa. Il medico di guardia diede l'allarme e si mandò in gran fretta per un prete. Mentre D'Ambrés si confessava, la signora da lontano lo guardava in un modo curioso. Poi cominciò l'attesa. A un tratto lo sentirono rantolare. Le mani si raffreddavano, la faccia cominciava a sbiancarsi. A tratti si udiva un respiro enorme, improvviso, ma era sempre più raro. Poi gli sfuggirono 2 o 3 parole confuse, esalò un soffio leggero e intanto i suoi occhi giravano e la testa ricadeva di lato sul cuscino. Per un minuto tutti restarono immobili. La signora D'Ambrés s'avvicinò e senza sforzo, con la semplicità del dovere, gli chiuse le palpebre. Poi, lasciate cadere indietro le braccia e torcendosi i fianchi come nello spasimo di una disperazione contenuta, lasciò la stanza sostenuta dal medico e dalla suora. Un quarto d'ora dopo, Federico salì da lei. C'era un odore indefinibile, l'odore delle cose delicate che la circondavano. Sul letto, un vestito nero staccava nettamente sulla trapunta rosa. La signora D'Ambrés era in piedi, nell'angolo del camino. Non è che le supponesse grandi rimorsi, ma la pensava un po' più triste e con voce dolente: «Soffri». «Io? No, davvero?» Voltandosi, vide il vestito, lo esaminò, poi pregò Federico di non farsi riguardi. «Fuma pure, se ne hai voglia. Sei in casa mia». Con un sospiro aveva aggiunto: «Santo cielo, che sollievo!» Federico, sorpreso, osservò baciandole la mano: «Eravamo liberi, però». Questa allusione ai loro amori incontrastati parve irritare la signora. «Già? Ma tu non sai i servizi che gli rendevo, né in quali angosce ho dovuto vivere. Ma come? Si capisce. Bella sicurezza aver sempre fra i piedi quella bastarda tirata in casa dopo 5 anni di matrimonio. E credi pure che se non ci fossi stata io gli avrebbe fatto fare qualche sciocchezza». Gli aveva raccontato allora tutti i suoi affari. S'erano sposati con la clausola della separazione dei beni. Il patrimonio di lei era di 300.000 franchi. D'Ambrés le aveva assicurato una rendita di 15.000 franchi d'argento e la proprietà del palazzo, ma poco tempo prima aveva firmato un testamento col quale le lasciava tutta la sua fortuna, che lei valutava, per quanto era possibile sapere, a più di 3 milioni. Federico spalancò gli occhi. «Ne valeva la pena, no? Del resto ci ho messo anche del mio. Era qualcosa di mio che difendevo. Se fosse toccato a Cecilia, sarebbe stata una cosa ingiusta. Come mai non è venuto a vedere suo padre? Chiese Federico. La signora D'Ambrese lo fissò, poi, seccamente. Cosa vuoi che ne sappia? Mancanza d'affetto, evidentemente. La conosco quella. E così non avrà un centesimo, per quanto mi riguarda. Seduto di fronte a lei in una poltrona, Federico rifletteva, scandalizzato. Lei s'alzò, andò a mettersi dolcemente sulle sue ginocchia. «Solo tu sei buono. Io non amo che te». Guardandolo, il cuore le s'era intenerito. Una reazione nervosa le inumidì gli occhi di lacrime. Mormorò «Mi vuoi sposare?». In principio credette di non aver capito. Tanta ricchezza lo stordiva. Dovette ripetergli più forte «Mi vuoi sposare?». Lentamente, con un sorriso, Federico disse «Puoi dubitarne». Preso da un improvviso pudore e per offrire al defunto una specie di riparazione, si offrì di vegliarlo lui stesso. Ma si vergognava di un sentimento così pio e in tono disinvolto aggiunse «Forse farebbe una migliore impressione». «Forse sì, per i domestici», disse la signora. D'Ambreuse lasciava la tenuta di Nogent, tre manifatture in Picardia, il bosco di Crancé, una fattoria vicino a Orléans e beni immobili ragguardevoli. Federico andava così ricapitolando la sua fortuna e tutto questo adesso sarebbe toccato a lui. Pensò prima a quello che si sarebbe detto, poi al regalo che avrebbe fatto a sua madre, agli equipaggi che avrebbe avuto, al vecchio cocchiere di casa che gli sarebbe piaciuto mettere in portineria. Il giorno del funerale, in Place de la Madeleine, era giorno di mercato dei fiori. Il tempo era chiaro e dolce, il venticello che scuoteva appena i teloni delle bancarelle gonfiava dai lati l'immenso drappo nero appeso al portale della chiesa. Sopra, dentro un quadrato di velluto, era ripetuto tre volte lo stemma dei D'Ambreuse. Le sei cappelle, l'emiciclo e le sedie erano coperti di nero. Ai piedi del coro il catafalco formava con i suoi grandi ceri un'unica massa di luce. Negli angoli, su candelabri, ardevano fiamme di spirito. I personaggi più importanti presero posto accanto all'altare, gli altri nella navata, e l'ufficio ebbe inizio. Fatte poche eccezioni, l'ignoranza religiosa dei presenti era tale che il cerimoniere, di tanto in tanto, doveva far segno d'alzarsi, d'inginocchiarsi, di risedersi. L'organo e due contrabbassi s'alternavano alle voci del coro. Negli intervalli di silenzio giungeva dall'altare il borbottio del sacerdote, poi musica e canto ricominciavano. Il carro funebre, con i suoi paramenti di stoffa e i suoi alti piumaggi, s'avviò verso il Père Lachaise. A trainarlo erano quattro cavalli neri provvisti di trecce nella criniera e pennacchi sulla testa e coperti fino agli zoccoli da ampie gualdrappe bordate d'argento. I passanti si fermavano per vedere. La fossa di D'Ambrèse era nei paraggi di Manuel e di Benjamin Constant. Il terreno lì scende bruscamente. All'altezza dei piedi spuntano le cime verdi degli alberi. Più lontano, i camini delle pompe a vapore e poi tutta l'immensa città. Federico ebbe modo d'ammirare il paesaggio durante la lettura dei discorsi. Tutti approfittarono dell'occasione per tuonare contro il socialismo, dal quale D'Ambrèse era stato praticamente assassinato. Lo spettacolo dell'anarchia e la devozione di lui all'ordine avevano accorciato i suoi giorni. Si esaltarono le sue virtù illuminate, la sua probità, la sua generosità, persino il suo mutismo come rappresentante del popolo, dato che, se non era un oratore, possedeva in cambio quelle solide qualità, mille volte preferibili, le quali, eccetera, eccetera, eccetera. In più furono pronunciate tutte le frasi richieste dalla circostanza: fine prematura, eterno rimpianto, la patria dell'aldilà, addio, o meglio no, arrivederci. Federico tornò a casa stanco morto. Quando la mattina dopo si presentò a Palazzo D'Ambrèse, fu avvertito che la signora stava lavorando da basso nello studio. Cassetti e contenitori erano aperti alla rinfusa, i libri dei conti buttati qua e là, un rotolo di carte con su scritto «Crediti in sofferenza» era caduto per terra e Federico per poco non ci incespicava. La signora D'Ambrèse era quasi invisibile, seppellita dentro una grande poltrona. «Allora, dove sei? Ma che sta succedendo?» S'era alzata di scatto. «Che sta succedendo? Succede che sono rovinata! Rovinata, capisci?» Il notaio Langlois l'aveva convocata nel suo studio e le aveva comunicato un testamento sottoscritto da D'Ambrèse prima del matrimonio. In esso il banchiere lasciava tutto a Cecilia e l'altro testamento non si trovava più. Federico diventò pallidissimo. «Di sicuro non aveva cercato bene». «Ma guarda, guarda!» disse la signora mostrandogli la stanza. «Miserabile! E io che l'ho curato con tanta devozione!» Era scoppiata in singhiozzi. «Non potrebbe essere altrove!» disse Federico. «Ma no! Ti dico che era là, in quella cassaforte! L'avevo visto di recente! È stato bruciato, ne sono sicura!» Un giorno, all'inizio della malattia, D'Ambrèse era venuto giù per firmare dei documenti. «È allora che deve aver fatto il colpo!» Annichilita, si lasciò cadere su una sedia. Una madre in lutto accanto alla culla vuota non farebbe più pena della signora D'Ambrèse davanti alle casseforti spalancate. Insomma, nonostante la bassezza del motivo, il suo dolore sembrava così profondo che Federico si mise a consolarla. Dopotutto, non era mica ridotta alla miseria. «Alla miseria, sì! Dal momento che non posso offrirti una grande fortuna!» Non le restava che una rendita di 30.000 franchi d'argento, senza contare il palazzo che poteva valerne da 18 a 20.000. Benché si trattasse ai suoi occhi di una vera opulenza, Federico non riusciva a non sentirsi deluso. Addio sogni, addio vita grandiosa che s'era immaginato di fare. L'onore lo spingeva a sposare la signora D'Ambrèse. Rifletté un minuto, poi con accento di tenerezza: «Per me ci sei sempre tu». Gli si gettò fra le braccia e lui la strinse al petto con una commozione nella quale entrava anche un po' di ammirazione per se stesso. La signora D'Ambrèse aveva smesso di piangere. Alzò il viso, tutto raggiante di felicità, e prendendogli la mano: «Non ho mai dubitato di te. Ero sicura». Quella sicurezza anticipata di un gesto che a lui sembrava molto nobile non suonò bene a Federico. Poi andarono nella sua stanza e fecero dei progetti. Lui adesso doveva pensare a lanciarsi. La signora gli diede ammirevoli consigli sulla sua candidatura. Thank you. casa, un fattorino aspettava Federico con poche righe scritte a matita, con le quali lo si avvertiva che Rosanette stava per partorire. Da un po' di giorni era stato talmente occupato che non ci pensava più. La marescialla era andata in una clinica specializzata a Chaillot. Federico prese un fiacre e si mise in cammino. All'angolo di Rue de Marbeuf lesse a caratteri cubitali su una targa «Casa di cure di maternità, diretta da Madame Alessandri, levatrice di prima classe, diplomata, autrice di numerose pubblicazioni, eccetera, eccetera». Rosanette lo accolse con ineffabili sorrisi e a voce bassa, come soffocata da una piena d'affetto, gli disse «È un maschio, là, là, guarda!» e indicava vicino al suo letto un lettino da neonato. Federico scostò il velo e vide tra le lenzuola qualcosa di rosso e di giallastro, incredibilmente pieno di rughe, che mandava cattivo odore e vagiva debolmente. «Su, dagli un bacio!» Cercando di nascondere la sua ripugnanza, rispose «Ma ho paura di fargli male!» «No, no!» Allora, a fior di labbra, diede un bacio a suo figlio. «Come t'assomiglia!» Con le sue braccia deboli, s'era appesa al suo collo in uno slancio d'affetto che ancora non le conosceva. Gli venne in mente la signora d'Ambreuse e si rimproverò come una cosa mostruosa d'aver tradito quella povera creatura che amava e soffriva con tutta la schiettezza della sua indole. Per parecchi giorni le tenne compagnia da mattina a sera. Stava per partire alla volta di Nogent quando arrivò una lettera di Delorier. Due nuovi candidati, uno conservatore e l'altro rosso, s'erano presentati. Per un terzo, chiunque fosse, non c'erano speranze. Era colpa di Federico, aveva lasciato passare il momento buono, avrebbe dovuto andare prima, muoversi, darsi da fare. Federico fece vedere la lettera alla signora d'Ambreuse. «Ma come? Non sei stato a Nogent?» «No, perché?» «Tre giorni fa ho visto Delorier». Saputo della morte del marito, l'avvocato era venuto a consegnarle alcuni appunti sul carbon fossile e a offrirle i suoi servigi come uomo di fiducia. La cosa parve strana a Federico. Cosa diavolo ci faceva là, il suo amico? La signora d'Ambreuse volle sapere come avesse impiegato il suo tempo dopo che s'erano separati. «Sono stato poco bene», rispose Federico. «Avresti dovuto avvertirmi almeno?» «Oh no, non ne valeva la pena». Condusse da quel momento una doppia vita, andando religiosamente a dormire dalla marescialla e passando il pomeriggio dalla signora d'Ambreuse. Gli restava, sì e no, un'ora libera a metà giornata. Il bambino adesso era in campagna, a Andilly. Andavano a vederlo tutte le settimane. Ma bisognava inventare delle storie anche per Rosanette, che non riusciva a capire dove passasse tutte le sue serate. Quando mandava a cercarlo a casa, era sempre fuori. Un giorno che c'era, le due donne arrivarono quasi nello stesso momento. Federico fece uscire la marescialla e pregò la signora d'Ambreuse di nascondersi, dicendo che stava per arrivare sua madre. Queste bugie cominciarono presto a divertirlo. Ripeteva a una i giuramenti che aveva appena fatto a quell'altra, mandava mazzi di fiori identici, scriveva a tutte e due contemporaneamente e le confrontava fra loro. Ma ce n'era sempre un'altra. Una terza, presente al suo pensiero. Un giorno la signora d'Ambreuse, mostrandogli un pezzo di carta col quale la si avvertiva che il signor Moreau viveva a More Uxorio con una certa Rosa Bron, gli disse «Non è quella signorina delle corse, per caso?» «Che cosa assurda!» rispose Federico. «Lasciami vedere». La lettera era scritta in stampatello e non era firmata. All'inizio la signora d'Ambreuse aveva tollerato quell'amante che serviva a nascondere la loro relazione, ma quando la sua passione s'era fatta più forte aveva preteso una rottura. Cosa avvenuta ormai da tempo, secondo Federico. La signora gli lasciò finire le sue proteste, poi, socchiudendo le palpebre e lanciandogli uno sguardo che brillava come la punta di un pugnale attraverso un velo di garza, «E quell'altra?» «Quale altra?» «La moglie del fabbricante di ceramiche». Federico alzò le spalle con un gesto sdegnoso. Lei non aveva insistito. Ma un mese dopo, venuti a parlare d'onore e di lealtà, e siccome Federico si vantava della sua, gli disse «È vero, tu sei leale, non ci sei più tornato». «Dove?» balbettò Federico pensando alla marescialla. «Dalla signora Arnoux». La supplicò di dirgli da chi avesse avuto quell'informazione. Dalla sarta di cui si serviva per i lavori meno impegnativi, la signora Reginbar. E così lei conosceva la vita di Federico, mentre lui non sapeva niente della sua. Anna Buonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.